Cari cristiani, un po' ormai ci conosciamo. Se io qualche volta pungo, lo faccio per vedere se c'è sangue o se sei cadavere. Se ti pungo un po' e ti dico, mi spiace che non avete tra le mani il messalino. Per aver ascoltato questo capitolo sesto del primo libro dei Re, in cui veniva descritto in maniera particolareggiata l'arredamento del Tempio di Gerusalemme. Io lo so che tra i cristiani c'è sempre una polemica, qualcuno dice, ma la parola di Dio va ascoltata più che non letta. È vero. Peccato che questo valeva per una società, una cultura dell'ascolto. Oggi noi siamo una cultura del visual, del vedere. Tant'è vero che io che mi sono letto questa lettura la ricordo bene. Temo che voi non ricorderete niente, anche se è stata letta bene. Si parla dell'arredo di questo tempio, delle sculture, del legno di cedro che serviva per foderare tutto l'ambiente, del legno di cipresso che serviva invece per i pavimenti e del legno di ulivo che serviva invece per scolpire le statue. Il legno nell'arredamento è sempre stato un fattore di eleganza, è sempre stato un fattore di ricchezza. E questa gente per il tempio di Dio non bada a spese. Poi c'è anche tutto il resto, rivestito d'oro, delle colonne di bronzo. Perché per l'ebreo il tempio era la casa di Dio. L'abbiamo sentito anche nel Salmo, Signore, amo la casa dove tu dimori. E per noi cristiani? Oh, c'è stato un tempo in cui era così anche per noi. Si portava in chiesa un bambino e si diceva, vieni, andiamo nella casa di Gesù. Poi i soliti illuminati, sapientoni, hanno cominciato a dire, ma no, non è la casa di Dio, anche Gesù ha detto che il vero tempio di Dio è il suo corpo, e come no, le so anch'io queste cose. E il tempio è la casa della comunità cristiana, e infatti è sempre vuoto. Ma certo che il tempio è la casa di Dio, è la casa della comunità cristiana, ma una volta c'era un amore anche per le nostre chiese. Vi porto solo qualche esempio. C'erano donne che facevano quasi a gara per confezionare tovaglie belle per l'altare. Oggi è tutto fatto a macchina. Va benissimo, va benissimo. Ah, ma è il tempio e la casa della comunità cristiana. E Dio che abita nel tabernacolo? Ce lo siamo scordati. Una volta la gente andava passando via di chiesa, passava dentro a fare una visitina, o nei paesi per la gente vicina alla chiesa c'era l'abitudine a fare una visita al Santissimo Sacramento. Una volta non mancavano mai, mai, mai, mai, mai i fiori sull'altare. Oggi non ci sono mai, mai, mai, mai, se non quando si sposano le persone o quando ci sono i funerali. Allora i fiori non si portano per Dio, si portano per le persone. Mi capite, amici, che è un po' diversa la storia? Il tempio, casa di Dio. E ancora alcuni dicono, ah, ma non dobbiamo avere delle chiese ricche, dobbiamo dare ai poveri. Ma certamente, peccato che si sono impoverite le chiese e i poveri sono rimasti sempre sullo stesso gradino, se non ci fosse la Caritas che dà una mano, o se non ci fossero organizzazioni laiche che danno una mano. Quando mai, amici, si fa un fioretto per mettere da parte dei soldi per i bambini poveri missionari? Ma non esiste più niente di tutto questo. La Chiesa si è impoverita nelle sue bellezze esterne e i poveri sono rimasti ancora poveri con le loro povertà. Non è, amici, che per caso noi amiamo di meno Gesù e abbiamo le nostre case scintillanti a specchio o foderate di moquette o foderate, loro sì, di parquet, e le nostre chiese lasciate andare? Che possa questo brano di oggi, ma non l'avete letto, che possa il Salmo che vi rileggo, che è bellissimo, aiutarci ad amare Gesù, il suo corpo, che sono anche i poveri, ma anche il suo corpo, che è l'Eucaristia, conservato nelle chiese. Signore, amo la casa dove tu dimori, io giro attorno al tuo altare, o Signore, per far risuonare voci di lode, come si canta poco in chiesa, come siamo poco educati a cantare. Signore, amo la casa dove tu dimori, il luogo dove abita la tua gloria. Nelle assemblee benedirò il Signore. O Signore, donaci di amare te, presente nel povero, presente in ogni persona, ma presente nel santo tabernacolo, presente nelle nostre chiese benedette.